as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e Rose. Mi raccomando, supportiamo Radio Città Fucico, una radio indipendente, abbiamo bisogno del vostro supporto più che mai. Seguiteci, ma seguite le trasmissioni della radio, fate gli abbonamenti, insomma, sosteneteci perché c'è bisogno di una radio indipendente come Radio Città Fucico. Avete visto quanti appelli ci sono stati prima di Capodanno e... Le radio indipendenti veramente sono pochissime, supportate Radio Città Fucico. Ora, oggi, così come vi avevo detto l'ultima puntata, iniziamo con la programmazione che avevo in testa. Ci saranno delle varianti, chiaramente, perché se succede un fatto importante noi comunque cambieremo la programmazione, però avevo promesso che avremmo fatto una puntata su Amedi Marelli e abbiamo sfruttato l'assemblea che c'è stata l'altro giorno a San Lazzaro, l'assemblea dei delegati della FIOM dell'Emilia Romagna, in realtà dei dirigenti delegati dei vari direttivi provinciali e regionali di tutta l'Emilia Romagna. Sono andato anch'io in questa assemblea era presente il nostro segretario nazionale Michele De Palma, era presente il nuovo segretario Gianni Cotugno della FIOM regionale e c'era anche Landini. Ora avete letto sui giornali, no? Questa assemblea che si è svolta venerdì, Landini ha detto cose importanti anche nell'intervento che ha fatto nel palco. Anche io ho fatto un intervento, potete andarmi a seguire nella mia pagina, chi mi conosce, e non sono riuscito io a intervistare Gianni Cotugno, segretario regionale, che abbiamo chiesto quello che sta succedendo nella contrattazione dei meccanici, abbiamo chiesto insomma di parlare di quello che sarebbe detto in questa grande assemblea, gli argomenti principali. Io non sono arrivato in tempo, sono bloccato in tangenziale. La nostra collaboratrice, amica, compagna Alessandra Testa l'ha intervistata, dovevamo farlo insieme l'intervista alla fine, e la daremo penso martedì prossimo, e qui sentiremo il nostro nuovo segretario regionale della FIOM Gianni Cotugno, che ci spiegherà una serie di cose. Io, dopo l'intervento di Mimmo Lisi, il delegato, sono andato a intervistarlo perché ha detto cose importanti per quanto riguarda gli sviluppi della vertenza della Amedi Marelli. Ricordo a tutti quanti, ex Amedi Marelli, che è stata acquistata questa multinazionale americana che a un certo punto addirittura era rientrata nel contratto nazionale del meccanici, era uscito fuori dal CCSL, tutti contenti, scherzetto, sapete benissimo quello che è successo. Pochi mesi fa ha dichiarato che chiude, trasferisce tutto a Bari. Grande lotta dei lavoratori, dei delegati, supporto del territorio. Devo dire veramente che il territorio di Bologna, ma in generale dell'Emilia Romagna, ogni volta che c'è, non dappertutto. Devo dire che purtroppo, ad esempio, nel Ferrarese da Bompani il territorio non ha reagito come avrebbe dovuto, dal mio punto di vista. Però tante Emilia Romagna, quasi dappertutto ci sono state tante battaglie in cui il territorio ha aiutato, e nella Amedi Marelli le varie fabbriche sono andate a supportare i lavoratori, c'è stato forte, insomma, sono riusciti a fare tante cose importanti, vari scioperi, vari presidi, sono stati là davanti alla fabbrica, hanno bloccato i camion, hanno fatto lavorare la fabbrica a singhiozzo, insomma. Sono riuscito a ottenere vari risultati e sentirmi dall'intervista le novità. Io non spoilerò niente, vi ascoltate l'intervista se volete sapere le novità che ci sono. Diciamo che sono novità importanti, però premetto, visto che ci ascoltano tanti giornalisti che poi scrivono gli articoli, voglio dire chiaramente a tutti che sono ipotesi oggi di firmato. Io sto ragionando non da speaker radiofonico, non posso chiamarmi giornalista, faccio ridere i polli, però da delegato sindacale, dirigente sindacale, vi dico che quando si firma qualcosa, e anche lì poi bisogna vedere se poi si porta a casa quello che si firma, dunque, ma oggi di firmato non c'è nulla, metti i puntini sulle i, sono ipotesi, tutto quello che è stato detto tra me e Mimmo Lisi sono delle ipotesi, sono le linee sindacali che si vorrebbe portare avanti, sono tutte cose che ad oggi di concreto non c'è assolutamente nulla, sono solo ipotesi, ok? Adesso io vi lascio a un bellissimo pezzo, ci ascoltiamo l'intervista a Mimmo Lisi e poi piccole conclusioni perché abbiamo poco tempo come al solito. A dopo. Allora, abbiamo qui Mimmo Lisi, siamo l'attivo regionale dei delegati della FIOM dell'Emilia Romagna. Ho sentito il tuo intervento, mi hai davvero commosso. Insomma, ci sono novità per quanto riguarda l'ex Meneti Marelli. Ieri è venuto incontro a Roma. Volevamo sapere, come Pannella Rosa, che se tu ci potessi dire qualcosa più specifico. So che oggi avete fatto le assemblee, spiegaci un po' com'è andata ieri soprattutto. Sì, diciamo che nel ringraziarti te la redazione della possibilità che date a me di parlare del nostro vivere quotidiano, un vivere difficile che da 4 mesi ci ha travolto, e dopo un periodo abbastanza buio e difficile ieri a Roma abbiamo cominciato a intravedere spicchi di luce, spicchi di luce che si devono tramutare fra qualche settimana in conferme e in luce vera. Diciamo che ieri è successo che per la prima volta hanno ufficializzato 2 richieste di che al momento non sono vincolanti, di compravendita dello stabilimento. Quindi al momento avremmo 2 potenziali richieste due potenziali imprenditori che potrebbero rilevare, come hai detto tu, la ex Magneti Marelli di Grevalcore. Allora, io non so se tu puoi parlare, quello che ti volevamo chiedere, poi mi dirai se è possibile o non è possibile, le cose che ci interessano, interessano a chi ci ascolta, insomma anche la redazione, e se stiamo parlando sempre del mondo metalmeccanico o andiamo fuori del mondo metalmeccanico, e se stiamo parlando di grosse aziende che possono seriamente acquistarvi e portare avanti un progetto industriale. Ti spiego perché. Noi abbiamo visto in passato cosiddetti cavalieri bianchi, abbiamo visto vicende di aziende in cui abbiamo visto compratori che erano totalmente finti, in realtà erano solo speculazioni finanziarie, quella è la cosa più brutta, se poi vi trovate da una speculazione finanziaria è un'altra, visto che quello che vi è successo a voi è una tipica speculazione finanziaria. Ma al momento posso dirti alcuni particolari che, come ho detto, non sono definiti. Sembrerebbero due aziende vere, sicuramente non sono molto grandi, di cui una è di Novara e ha 160 dipendenti, quindi rileverebbe una struttura come la nostra equivalente a quella che ha. Non siamo entrati nei particolari perché al momento non hanno fatto offerte vincolanti, quindi non abbiamo avuto modo di parlare direttamente con loro, però loro hanno presentato un piano industriale che sembrerebbe abbastanza reale e in continuità con il lavoro che stiamo già facendo. Quindi questi che lavorano già per Marelli continuerebbero in parte a fare il lavoro che facciamo già oggi a Crevalcore. Sulla seconda è abbastanza più grande, ha tre stabilimenti in Europa, uno a Venezia, uno in Francia, uno a in Inghilterra, e Cuba un numero di dipendenti molto superiore a quello detto precedente, si parla di più di 600 dipendenti e un fatturato molto più alto, perché si parla di 200 milioni di euro. Sicuramente sono nel mondo metalmeccanico, però tutti e due collegati all'alluminio, di cui il primo è un alluminio che fa parte più della componentistica, l'altro sembrerebbe un alluminio un po' più puro, perché farebbe dei laminati. Sicuramente al momento non mi esprimo e non esprimo giudizi né sull'uno né sull'altro, perché dovremo, quando li incontreremo, capiremo di quello che stiamo parlando. E, però al momento sembrerebbe, anche se non grandi aziende, aziende piccole con tanta voglia di fare. Allora, non sempre la grandezza dell'azienda ti dà delle garanzie, ripeto, è il piano industriale, è l'assetto di un'azienda, perché una piccola azienda che ha comunque è messa bene economicamente, dei clienti, ha un piano industriale di sviluppo, spesso è anche meglio di una grande azienda che vuole fare delle speculazioni oppure si lancia in progetti, insomma, un po' così. Diciamo che quello che dici tu è vero. In parte ti dico che è vero che passare dalla grande azienda come siamo noi, ex 10.000 dipendenti, all'azienda di 160 ci fa paura, quello è indubbio negarlo. Però è anche vero che, abituati a parlare con nessuno negli ultimi tempi, dove purtroppo anche il lavoro aziendale è stato svenduto, nel senso che nessuno poteva prendersi le responsabilità di determinate azioni, forse avere anche qualcuno in loco con cui parlare e risolvere subito le situazioni potrebbe essere anche la cosa migliore. Sicuramente vedremo il prossimo mese i piani industriali, e quindi al momento parlare di uno dell'altro sarebbe non giusto, anche perché certo, parliamo di un qualcosa che al momento non abbiamo visto, perché il sentito è stato detto da Marelli, ma Marelli ha tutto l'interesse a vendere. Noi vogliamo parlare con i proprietari per capire se il piano che ci è stato illustrato è realizzabile o meno. Chiaramente anche per i nostri ascoltatori, questi sono solo proposte non vincolanti. Voi state aspettando che la diventi vincolante. Nel momento in cui c'è un vincolo e le aziende si impegnano, allora si può parlare di qualcosa di più concreto. Ad oggi sono solo delle ipotesi. Sì, hai detto bene tu, al momento non sono vincolanti, fra 2 settimane dovrebbero essere vincolanti. E quindi quando ci sarà la proposta col vincolo cominceremo a parlare del nostro futuro, che speriamo sia più roseo di quello che abbiamo appena lasciato. Allora, quello che mi interessa, te lo dico proprio più che il pane delle rose, Gianplagio Ottaviano, io volevo capire, visto che ne conosco parecchi che lavorano da te, lo sai benissimo, come oggi in assemblea i lavoratori hanno risposto a quello che voi gli avete raccontato? No, in assemblea diciamo è stata abbastanza tranquilla sotto questo aspetto, perché non portava niente di differente rispetto al passato. L'unica differenza era la proposta non vincolante con l'ufficializzazione dei nomi, che te lo dico tranquillamente, noi già sapevamo. Certo. Quindi non c'è stata una grossissima novità in questa assemblea. Sicuramente nelle prossime, dove ci sarà l'eventuale compratore, dove si comincerà ad andare a parlare dei trasferimenti, degli incentivi, dei pensionamenti, quindi delle cose che interessano una parte di lavoratori, lì sicuramente ci sarà un grosso dibattito, anche perché queste questioni qui fanno la differenza per le scelte che uno deve fare. Certo, ci sarà, come abbiamo già visto per altre aziende tipo la Saga Coffee e anche altre aziende, insomma, in cui abbiamo visto che alla fine, chiaro, chi acquista i vecchietti non li vuole mai. C'è anche una questione di incentivi, come sempre. Però la cosa più importante è il piano industriale, quello che voi state aspettando. Quando è che diventa vincolante le proposte? Dovrebbe essere a fine mese. Comunque volevo spiegare 2 cose. Diciamo che su quello che accadrà lo vivemo vivendo, diciamo, perché non ti so dire quello che potrebbe esserci. Di vecchietti, per sfortuna nostra, ce ne abbiamo pochi. E quindi i pensionati, perché loro aprono una isopensione di 7 anni, che per determinate aziende è una manna dal cielo, soprattutto perché è vicino alla pensione. Purtroppo noi non abbiamo tanti numeri per usufruire di questa isopensione, e quindi si cercherà di capire e di abbassare i numeri di eventuali trasferimenti, che noi vogliamo dirlo come abbiamo detto all'azienda: noi cerchiamo di arrivare ai trasferimenti a zero, nel senso che non ci sia nessuna quota di incentivazione, ci sia solo esclusivamente un posto di lavoro per ogni lavoratore dell'azienda, cosa che al momento è un po' difficile, perché la proposta di vincolante sarà di minimo 150 persone, sembrerebbe un'azienda disposta anche a superare, diciamo a 160. Poi ci sarebbero alcuni trasferimenti a Bologna che noi cercheremo di aumentare. Perché c'è una fetta di Marelli che rimane qua a Bologna. Sì, rimane Bologna aperta. E hanno chiesto un numero di trasferimenti per Bologna che noi cercheremo di aumentare, e poi ci sono posizioni aperte per 3 stabilimenti in Italia, di cui uno è a Corbetta, Milano, uno è a Tolmezzo, Udine, e uno a Caivano, Napoli, dove parte delle persone... Bari no, perché è in crisi. Ah, è vero. Bari è in crisi, e quindi fa fatica a recepire personale. Poi, avendo anche del personale che non è del loco, potrebbe essere anche allettato di qualcuno di avvicinarsi a casa, anche se le condizioni sono cambiate, perché certo, uno ora ha la famiglia, quindi ha più difficoltà a fare determinate ricerche. Comunque tutto questo viene ricondotto sul fatto che è solo su una questione personale di volontarietà e quindi si dovrà trovare una sistemazione a ognuno dei 228. Dunque è importantissimo, è spesso dei concetti che io condivido, volontarietà, dunque nessuna lista di persone e soprattutto voi puntate a spostamenti zero, se riuscite una persona, un posto di lavoro, e questo è tanto. Diciamo che quello sarebbe la cosa migliore e auspicabile, speriamo di arrivare oppure di diminuire questo numero al più piccolo possibile di incentivi. Perché secondo noi è sempre una sconfitta, il posto di lavoro deve essere il posto di lavoro e poi il messaggio che bisogna dare a tutti gli imprenditori che vengono in Emilia Romagna che vogliono fare i furbi è che in Emilia Romagna i posti di lavoro non si perdono ma si lasciano lì dove sono. Grande, grande, grazie Mimmo. Allora avete ascoltato In fabbrica della banda popolare dell'Emilia Rossa, buon auspicio. Io dico, ripeto per l'ennesima volta, perché non voglio che dopo si vada a dire come è successo in passato, il Pane Rose ha detto che là è tutto risolto, hanno trovato chi compra la fabbrica, hanno già fatto l'accordo, hanno già sistemato, sono tutti a posto, i lavoratori... No, ripeto, no. Ipotesi, i cavalieri bianchi esistono. Quante volte abbiamo parlato di aziende che erano lì tutto a posto, tutto già fatto, per la fine si è rivelato nulla. La Whirlpool insegna, non so quante aziende dovevano acquisire la Whirlpool, quante volte sono stati illusi i lavoratori, alla fine si è risolto dopo anni e anni e anni la vertenza Whirlpool, per non parlare di GKN e anche, quello che, anche altre aziende. Dunque, ci sono delle ipotesi, bisogna guardare queste ipotesi, bisogna vedere queste due aziende, bisogna vedere queste cosa vogliono fare, il piano industriale, se si impegnano realmente, se sono disposte a venire a patti con il sindacato, se sono disposte a rispettare gli accordi, che tipo di accordo e tutto il resto. È molto complicato, lo dico per tutti chi ci ascolta, tutti gli addetti ai lavori, ok? E non parlo dei sindacalisti, perché chi lavora nel sindacato lo sa come funziona. Detto questo, io dico la mia, io faccio i migliori auguri. Secondo me, se le cose non dovessero andare bene, bisogna ripartire con la lotta. Io ho la mia posizione politica ben precisa, visto che spesso ci sono troppi cavalieri bianchi, spesso si fa troppa speculazione finanziaria, spesso si cade dalla padella alla brace, e non sarà il caso di Amedi Marelli, perché chi sta seguendo la vertenza sono funzionari con una tot di esperienza e di fregature prese in passato, non una. Ricordiamoci, molte aziende a Bologna purtroppo hanno chiuso, non una, due, tre, tante, che purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i risultati che volevamo, e chi segue la vertenza Amedi Marelli ne ha avute purtroppo di sfighe, perché non sempre si riesce a salvare la fabbrica. Ecco perché io penso che l'affronteremo in maniera seria e saremo pronti a ripartire con la lotta e saremo al fianco di lavoratori Amedi Marelli se non dovesse andare tutto come deve andare. Detto questo, io ho una mia posizione politica, io credo che quando una multinazionale come quella che ha preso in mano Amedi Marelli, non facciamo i nomi, evitiamo, che ha si è preso i soldi e poi è scappata, in questo caso, anzi sta investendo in altre aziende, in altri settori, che fa della speculazione finanziaria il suo mondo, che chiude, apre fabbriche, come tratta le famiglie di lavoratori come se fossero dei giocattolini. Io penso che lo Stato dovrebbe intervenire, nazionalizzare sotto il controllo operaio le aziende di questo tipo, secondo me sarebbe un dovere. Serve un partito dei lavoratori di massa che porti avanti questo principio, serve un sindacato che si faccia, che punti anche su questo, che spinga anche su questo, perché spesso si fa fatica a trovare chi compra l'azienda. Cioè, dei territori come Bologna ci si riesce, c'è una esperienza sindacale, una capacità anche della regione, anche la politica che ci si mette, bisogna ammetterlo. Cioè, ci sono chi oggi governa la regione, per quanto io li possa criticare, ci sono alcuni assessori, alcuni addetti ai lavori che comunque sia fanno di tutto e hanno le capacità, hanno le potenzialità di trovare dei compratori, ma non sempre accade. Dunque non possiamo affidarci alla buona sorte o al politico o al sindacalista in gamba che ci dia una mano, bisogna che ci siano delle leggi che impediscano che accadano queste situazioni, e bisogna che ci sia una lotta per ottenere certi risultati. Adesso io vi lascio con una speranza, che Amedi Marelli vada tutto bene, ma che nel futuro i lavoratori possano prendere una strada diversa, quella che nel momento in cui tu chiudi la fabbrica rimane qui. Mi ha detto una cosa ben precisa: se tu pensi di fare speculazione finanziaria, di farti soldi e poi scappare, lasciare centinaia di famiglie senza la roba da mangiare, non hai capito bene, ma soprattutto noi ti nazionalizziamo e ti mettiamo sotto il nostro controllo. Questo sarebbe il sogno di tutti noi lavoratori, soprattutto noi comunisti. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Orgoglioso de estar.